guardo il fuoco, per un falò, una corsa e perdo il fiato, prima un selfie, poi una foto, un tattoo sulla tua pelle, dove sei tu, quella voglia che ho d'averti, sogno ad occhi aperti, quanto amore si dà, tanto amore si ha, mi tocca e mi tocca se pierde nel nuovo peso, quando amore si dà, poi l'amore si fa. E tu cuerpo e mio cuerpo se unirò per un abbraccio. Quanto amore si... Quanto amore...